Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Maltempo, esondazione nel Reggiano, 1000 persone evacuate, esce dagli argini anche il Secchia, salvate 2 persone. Esplosione in un impianto di gas in Austria, un morto e 18 feriti, interrotta la fornitura verso l'Italia, stato di emergenza, annuncia Calenda. Popolare Vicenza, al via 3 giorni di udienze in tribunale, in commissione banche torna a parlare Banca Italia, nessuna pressione su Etruria. Governi europei complici delle torture sui migranti in Libia, dice Amnesty International. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. C'è anche la nostra pagina Facebook, come sempre, dalla quale andiamo anche in diretta video, dunque ci potete vedere e potete anche commentare là se credete. Dall'altra parte del vetro, Roberta Frisani in regia, Laura Faggin in assistenza e in redazione. Iniziamo dunque questa giornata con le cronache dalle esondazioni e dal maltempo che stanno colpendo in queste ore soprattutto l'Emilia-Romagna. Nel modenese è esondato il Secchia e ci sono 2 persone che sono state salvate dalle acque, ma apparentemente al momento la situazione più difficile è in una frazione del comune di Brescello, dove c'è stata un'evacuazione per l'esondazione del fiume Enza. Noi ci colleghiamo con Giacomo Di Matteo, che è uno dei 3 commissari straordinari del comune di Brescello, che appunto è commissario. Buongiorno Di Matteo, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Ci può dare ospitalità. Ci dia un quadro della situazione. Sì. Noi da stamattino alle 6, dopo aver cercato invano di potenziare l'argine con dei sacchetti sperando di farcela, però a un certo punto l'acqua ha avuto la meglio e pertanto siamo dovuti recedere e avviare le procedure di evacuazione. Procedure che sono state avviate puntualmente stamattina, però poi mentre questa era in corsa l'argine ha rotto e l'onda che è arrivata ha reso tutto più difficile, quindi sono intervenuti attraverso il coordinamento della prefettura tutti i mezzi operativi dei vigili del fuoco e a cui sono aggiunti poi quelli dell'esercito, dell'aeronautica 118, e il nostro obiettivo è cercare di intercettare, di portare via il più possibile dalle case le persone che evidentemente ci sono ancora quindi Di Matteo delle persone bloccate nelle case? Assolutamente sì, perché il lavoro è stato lungo, abbiamo dato priorità agli anziani, alle persone ammalate. Sulla base dell'informazione che avevamo abbiamo cercato di mirare questo intervento e adesso stiamo implementando le attività, perché poi sono arrivati gli anfibi e dei vigili del fuoco che riescono meglio a stare lì a galla, perché la corrente c'è e quindi diventa anche pericoloso intervenire senza alcune precauzioni. Quante persone ci sono ancora bloccate nelle case? Avete una stima? Ancora la stima no, perché man mano che arrivano li portiamo in raccolta, alcune vanno via, per cui questo dato è ancora non è molto attendibile. Diciamo che siamo a buon punto, ma preferirei non dare numeri non suffragati dagli elementi di riscontro successivi. Ci sono persone a rischio in questo momento, Di Matteo, oppure sono in sicurezza, per così dire? Le persone, noi stamattina abbiamo cercato di raggiungere tutti con tutti gli strumenti, anche con l'avviso WhatsApp, mail e quant'altro, anche sul sito del comune, per raccomandare di raggiungere i piani della casa, quindi diciamo che le abbiamo dato queste indicazioni. Poi man mano che i vigili del fuoco stanno attraversando il paese, le strade, e stiamo cercando di portare via. Stamattina anche gli elicotteri di vigili del fuoco hanno fatto alcuni salvataggi di persone che poi erano sul tetto, sul balcone, quindi sì. Stiamo facendo tutto di più con l'obiettivo primario di evitare che qualcuno si faccia male. Io la ringrazio, grazie per il suo racconto, la sua testimonianza, Giacomo Di Matteo, che appunto è uno dei 3 commissari straordinari del comune di Brescello, e vedremo come evolverà la situazione. Veniamo adesso alla manovra, le cronache dalla manovra. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, diciamo subito che a breve dovrebbe tenersi una riunione tra governo e maggioranza finalizzata a fare il punto sui primi passi parlamentari del provvedimento qui a Montecitorio. Un focus particolare sarà dedicato ai temi del welfare, pensioni e lavoro. La certezza di queste ore è che non sarà il treno della manovra quello giusto per la riforma della governance INPS, né per l'introduzione in Italia dello Ius Soli e per le nuove regole sui vitalizi, tutte questioni non inerenti alla manovra che i nuovi paletti previsti dalla riforma rendono ancora meno meno aperta ad assalti alla diligenza. Salta la stretta sull'uso del cellulare alla guida e via anche le misure per rendere obbligatori i seggiolini auto anti abbandono. La scure dell'ammissibilità della Commissione Bilancio della Camera si è abbattuta dunque sui 6.000 emendamenti alla manovra, tagliandone fuori circa un terzo per ragioni di estraneità di materia o di copertura. Tra gli emendamenti che saranno esaminati, circa 800, quello che riduce di un quarto l'obbligo della raccolta delle firme in vista della presentazione delle liste elettorali per i partiti non presenti in Parlamento, il raddoppio poi dell'indennità di licenziamento e quello per far scendere la durata dei contratti a tempo da 36 a 24 mesi. E per il momento è tutto, linea allo studio. E grazie dunque a Vincenzo Miglietta. Gli aggiornamenti adesso dall'Austria e in realtà anche dall'Italia, perché in un'esplosione in un impianto di distribuzione di gas a Baumgarten an der Mark in Austria, appunto, decine di persone sono rimaste ferite, almeno una persona ha perso la vita. Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, ma il punto è che il terminal di Baumgarten è il principale snodo per la distribuzione del gas che arriva in Austria dalla Russia e dalla Norvegia. Forniture dall'Italia interrotte per il momento, anche se Snam ha comunicato da poco che potrebbero essere ripristinate a breve. Per avere un quadro di cosa rappresenti anche questo terminal, ci colleghiamo con Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Ciao Sissi, buongiorno. Buongiorno, sì, effettivamente non ci voleva, perché in questo periodo fa molto freddo, i consumi di gas sono molto elevati, perché avevamo già delle tensioni sui prezzi dalla settimana scorsa. Noi quest'anno dobbiamo farci bastare metà della capacità di un altro tubo, quello che arriva via Svizzera in Italia, che porta altre forniture di gas dal nord Europa. E in questo periodo di grande freddo, di grande consumi, quindi passava un po' meno gas e i prezzi erano già saliti moltissimo, i prezzi spot, che poi se dovessero mantenersi alti avremmo ovviamente delle ricadute in bolletta. C'era stato un rialzo del 50% e passa nel giro di pochi giorni, adesso interviene questo nuovo incidente. Non è ancora chiarissima la situazione, come dicevi da studio non si conoscono esattamente le cause, stanno lavorando per mettere in sicurezza questo snodo, che è veramente uno degli snodi più importanti, più liquidi, dove passa grande quantità di gas in Europa. Una volta era lo snodo essenziale, irrinunciabile per il gas dalla Russia, adesso ci sono anche un po' di passaggi alternativi. Gazprom ha già fatto sapere che sta studiando come redirigere i flussi, le forniture di gas verso l'Italia. Sembrerebbe di capire da fonti nostre del Sole 24 Ore che non sono stati impattati i tubi direttamente verso l'Italia, però è chiaro che la situazione sarà più chiara nelle prossime ore. È un auspicio quello del governo e di Snam che si possa ripristinare un passaggio del gas. Nel frattempo il governo ha dichiarato poco fa lo stato di emergenza, che non è niente di terrificante, insomma, emergenza per quanto riguarda le forniture, servirà a rilasciare più gas dagli stoccaggi. Ti ringrazio, grazie a Sissi Bellomo per questo aggiornamento. Passiamo a parlare di banche, perché stamattina alle 10 è iniziata a porte chiuse a Vicenza l'udienza preliminare del maxi processo contro gli ex vertici della Popolare di Vicenza. 7 gli imputati, tra cui l'ex presidente Zonin. Misure di sicurezza rafforzate e sit-in di protesta nella prima delle 3 giornate che vedranno migliaia di persone costituirsi parte civile nel processo per il crack della Popolare di Vicenza. Sono 120.000 gli azionisti che hanno partecipato all'ultimo aumento di capitale nel 2015. Alcuni chiedono giustizia fuori dall'aula del Tribunale di Borgo Berga. La magistratura è l'unico modo per fare chiarezza, ci spiega lui Giugone del gruppo Noi che credevamo nella Popolare di Vicenza. Quello che il governo sta portando avanti era un'idea nata in una assemblea istituzionale fatta dalla nostra associazione, dove avevamo proposto un emendamento con 4 miliardi da estrarre dagli NPL della banca. Questo ci è stato rifiutato e la proposta è un fondo per delle vittime da reato finanziario da 50 milioni. Ma stiamo scherzando? Siamo già stati fregati da Zonin, a parole, la politica ci frega più. L'ex presidente Zonin è tra i 7 imputati per ostacolo alla vigilanza, aggiottaggio e falso in prospetto. Zonin è addolorato ma sereno, spiega l'avvocato, che conferma la presenza dell'ex manager della Vicenza domani in commissione parlamentare d'inchiesta a Roma, stralciata per motivi di salute la posizione dell'ex direttore generale Sorato. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questa mattina in commissione banche, la commissione d'inchiesta sulle banche, stanno proseguendo le audizioni, andranno avanti naturalmente per tutta la settimana. È tornato a parlare oggi Carmelo Barbagallo, a capo della vigilanza appunto della Banca d'Italia. Sentiamo un passaggio del suo intervento. Le risposte delle quattro banche alle sollecitazioni della vigilanza sono state insoddisfacenti. I rafforzamenti patrimoniali non si sono talvolta nemmeno realizzati. I ricambi degli esponenti di vertice non ne hanno migliorato i comportamenti. La pervicace difesa dell'autonomia ha scoraggiato la ricerca di potenziali acquirenti. Le autorità di vigilanza non possono sostituirsi ai soggetti vigilati, che non va dimenticato sono imprese, per evitare che la situazione degeneri. La vigilanza ha il compito di far emergere i problemi, di stimolare gli interventi necessari affinché essi vengano risolti e non si ripetano. Ma perché ciò accada è indispensabile la collaborazione degli organi aziendali. Dopo il tentato attentato di ieri a New York, Trump invoca la riforma delle leggi sull'immigrazione. 4, lo ricordiamo, i feriti lievi nell'attacco. Severità fino alla pena di morte per i terroristi e riforma delle leggi sull'immigrazione, chiede Trump a gran voce dopo il fallito attentato alla stazione dei Pullman di New York. La prima è più demagogia che pratica. La pena di morte già c'è, dove c'è, negli Stati Uniti. Il secondo è un appello al Congresso, che la portavoce di Trump rinforza incontrando i giornalisti. L'attentatore, un giovane bengalese, era regolarmente negli Stati Uniti da 7 anni, ma, sostiene Sarah Sanders, non sarebbe stato qui se avessimo le regole che vuole il presidente, se non esistesse la cosiddetta catena migratoria, che consente ai parenti di ricongiungersi negli Stati Uniti. Dobbiamo passare a un sistema che si basi sul merito, ha sostenuto Sanders, senza specificare né se l'uomo fosse già noto ai servizi per le sue tendenze estremistiche, né se la sua radicalizzazione sia avvenuta prima o dopo l'arrivo negli Stati Uniti, come è stato in molti altri casi. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E a proposito di immigrazione, c'è il duro attacco di Amnesty International ai paesi, appunto, che fanno sì che i migranti rimangano nei campi in Libia, sono complici delle torture, dicono. L'accusa non è nuova, ma ora è ribadita da un rapporto. I governi europei, e in particolare l'Italia, sono consapevolmente complici delle torture e degli abusi su decine di migliaia di migranti detenuti dalle autorità libiche per l'immigrazione in orribili condizioni in Libia. Lo scrive Amnesty International in un rapporto. In una nota la ONG afferma tra l'altro che gli ufficiali della Guardia Costiera Libica sono conosciuti per operare in collusione con le reti di trafficanti e per aver esercitato minacce e violenze sui rifugiati e sui migranti a bordo delle barche in difficoltà. L'organizzazione denuncia che video, fotografie e documenti controllati da Amnesty International indicano che il battello Ras Yadir, donato dall'Italia nell'aprile 2017 con 2 cerimonie alla presenza del ministro Minniti, è stato usato dalla Guardia Costiera Libica nell'orribile incidente in cui il 6 novembre 2017 affogarono 50 persone. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Francesco Sicignano, il pensionato di Vaprio Dadda nel Milanese, che nell'ottobre del 2015 sparò ed uccise un ladro, la cui posizione di indagato per omicidio volontario è stata archiviata ieri, deve essere restituita la pistola con la quale esplose i colpi. Lo ha stabilito il GIP di Milano, Teresa De Pascale, nel suo provvedimento, nel quale chiarisce che il pensionato, per legittima difesa, ha reagito nell'unico modo in quel momento possibile, ossia in una frazione di pochi secondi. Siamo allo sciopero dei medici. La sanità chiude un giorno per non chiudere per sempre. Questo è lo slogan dello sciopero generale di 24 ore di medici, veterinari e dirigenti sanitari, in tutto 134.000 professionisti, dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, che manifestano in varie città d'Italia con un grande sit-in a Roma, davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La protesta, organizzata praticamente da tutte le sigle sindacali del comparto, tra cui Anao Assomed, che parla di una vasta adesione, almeno dell'80%, interessa i lavoratori strutturati e precari. A causa della stensione, sospesi 40.000 interventi chirurgici programmati, centinaia di migliaia di visite specialistiche e di esami diagnostici e bloccata tutta l'attività veterinaria connessa al controllo degli alimenti. Le organizzazioni sindacali denunciano i contenuti della legge di bilancio 2018 all'esame del Parlamento, in quanto sostengono politiche sempre meno orientate all'obbligo di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini secondo equità e sicurezza ed escludono la sanità pubblica dalla ripresa economica in atto fino a renderla non più sostenibile. Inoltre, sempre i sindacati stigmatizzano lo stallo del rinnovo del contratto di lavoro dopo 8 anni di blocco legislativo e puntano il dito contro le politiche degli ultimi governi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi ricorre l'anniversario della strage di Piazza Fontana, questa è dedicata all'analisi del martedì di Daniele Biacchessi. Milano, 12 dicembre 1969. Natale arriva dopo 13 giorni. Un boato giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. 17 morti, 88 feriti. 17 morti più il ferroviere anarchico Pino Pinelli volato la notte tra il 15 e il 16 dicembre dal quarto piano della Questura di Milano, e fanno 18. Anni di inchieste, depistaggi da parte degli uomini degli apparati dello Stato, processi. Come è andata a finire? 5 sentenze istruttorie e 10 gradi di giudizio nei tribunali di Roma, Milano, Catanzaro tra il 1971 e il 2005 non hanno saputo dare un volto agli assassini, anche se una verità storica viene scritta dai giudici. La responsabilità di Franco Freda e Giovanni Ventura, assolti però nel 1987, e dei neonazisti padovani e veneziani di Ordine Nuovo. 48 anni dopo, i familiari delle vittime della strage dai capelli bianchi sfileranno ancora in Piazza Fontana e chiederanno, come sempre, verità e giustizia. Quella giustizia che resta negata anche oggi, proprio nei mesi in cui gruppi che si ispirano direttamente al nazismo sembrano riorganizzarsi, nei giorni in cui le istituzioni rimettono al centro dell'agenda politica una nuova stagione antifascista, ma nelle ore in cui gran parte degli studenti universitari milanesi non conosce nemmeno l'esistenza, nella storia contemporanea, della strage di Piazza Fontana, la prima di una lunga serie di stragi e omicidi politici che hanno insanguinato il nostro paese. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo, iniziamo il nostro giro d'Italia, gli argomenti che tratteremo, torneremo sul maltempo, al di là degli allagamenti che ci sono in queste ore, sui quali ovviamente vi daremo aggiornamenti, cioè tutto il tema dei problemi che si sono verificati sulle linee ferroviarie, le tante domande che ci sono degli ascoltatori, ma anche nostre, chi si chiede se in Germania, in Austria, in Francia succede la stessa cosa quando si gelano appunto i cavi che si trovano, che poi servono appunto per il trasporto dei treni. Cercheremo di rispondere a queste domande con qualcuno di Rete Ferroviaria Italiana, e poi un tema che abbiamo affrontato spesso negli ultimi giorni, ossia quello del cosiddetto racket dei mendicanti. Siamo stati ieri a Milano, dove hanno fatto qualche analisi, hanno tirato fuori qualche dato interessante su questo tema. Adesso andremo nel luogo dal quale è partito tutto, ossia Genova, infine in Sicilia, a Scicli andremo. Scicli è il peggior pagatore d'Italia, con una media di 650 giorni per pagare i propri fornitori, vuol dire 2 anni. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp, e la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video, la pagina Facebook di Effetto Giorno e quella di Radio 24. Vi leggiamo anche là, quindi se volete commentare, volete dirci qualcosa, potete farlo anche là. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del maltempo e dell'esondazione che c'è stata nel Reggiano, del fatto che è uscito dagli argini anche il Secchia nel Modenese, dell'esplosione in un impianto di gas in Austria, e adesso tra un attimo ci torneremo perché ho qualche aggiornamento da darvi, della Popolare Vicenza perché sono partite le udienze in tribunale e c'è anche la commissione banche che è tornata a riunirsi, ha interpellato di nuovo il capo della vigilanza di Banca Italia Barbagallo, e poi anche del rapporto di Amnesty International sull'immigrazione e l'accusa ai governi europei: siete complici delle torture sui migranti che avvengono in Libia. A proposito dell'esplosione che è avvenuta in un impianto di gas in Austria, la notizia di poco fa è una nota del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale chiarisce che sì, è stata sospesa l'operatività del gasdotto che collega attraverso l'Austria il nodo di Baumgarten fino all'ingresso di Tarvisio della rete italiana. È però vero che la fornitura gas ai consumatori italiani è assicurata, perché la mancata importazione viene coperta da una maggiore erogazione di gas dagli stoccaggi nazionali di gas in sotterraneo. A chi ci chiede dove si trovi fisicamente questo impianto che è esploso, si trova a est di Vienna, quasi al confine con la Slovacchia. A chi invece sottolinea un po' polemicamente via SMS, su WhatsApp, le responsabilità dei NOTAP nel fatto che abbiamo fonti di approvvigionamento di gas così limitate, esattamente quello tra l'altro che ha fatto questa mattina il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Iniziamo il nostro giro d'Italia dunque, e iniziamo da un tema che stiamo toccando spesso in questo periodo. I nostri ascoltatori più attenti si ricorderanno che nel luglio dell'anno scorso, quindi nella stagione precedente di Effetto Giorno per così dire, parlammo del tema dell'accattonaggio e del rischio che ci fosse un racket che controlla i migranti che durante la giornata escono dai centri nei quali vengono accolti, perché appunto non è che sono prigionieri, quindi possono andare in giro, e il rischio è che vengano gestiti da qualcuno che li porta nei luoghi nei quali vanno, si mettono col cappello in mano a chiedere denaro, e che questo sia un vero e proprio racket, denaro che raccolgono, con il quale si pensa, alcuni pensano che debbano pagare un debito, magari il debito di viaggio. Ieri abbiamo ospitato l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano che ha fatto un'analisi, ha mandato in giro gli uomini della Polizia Municipale per verificare che cosa effettivamente stesse avvenendo. Sono state identificate almeno 200 persone con un sistema organizzato che prevede addirittura quasi degli orari di lavoro dalle 7 alle 14, dalle 7 alle 16. Poi ieri l'assessore Rozza ci ha detto poco, perché ci sono delle indagini in corso e quindi più di tanto oggettivamente non ci poteva dire, e c'era stata una fuga di notizie. Adesso andiamo dove tutto è cominciato, ed è cominciato, attenzione, non da denunce delle autorità, ma da denunce di persone che si occupano esattamente di accoglienza dei migranti. Ospitammo all'epoca Enrico Costa, presidente del CEIS, che è il Centro di Solidarietà di Genova. CEIS che aveva espresso qualche preoccupazione perché diceva esattamente questo: attenzione, qua potrebbe esserci sotto un racket. Così il Comune di Genova, che cosa ha deciso di fare? Ha deciso di provare, per così dire, a schedare queste persone, mettiamola così, in senso buono, non in senso cattivo, capire chi sono e che cosa fanno durante la giornata. Saluto dunque Stefano Garassino, che è assessore alla sicurezza e legalità del Comune di Genova. Assessore Garassino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Scusate per la voce, ma sono molto raffreddato e questi cambi di temperatura, tutta l'acqua che ho preso ieri ha avuto conseguenze pesanti. Lo immaginiamo. Allora, assessore, tra l'altro la curia si è imbestialita per questa cosa qua. Hanno detto no, non si fa, non bisogna fare una schedatura. Ma allora, dunque, questo poi, se uno leggeva i titoli degli articoli usciti, dove il titolo che chiaramente è più mediatico c'era scritto schedatura, in realtà leggendo gli articoli quello che noi vogliamo fare, che stiamo facendo, non è una schedatura, è un'informativa per sapere tutti questi accattoni che sono per il 90% non italiani. Sottolineo, perché quindi questo è un dato importante, perché poi è uscita la polemica che io ce l'avrei con i mendicanti. Assolutamente non vero, è semplicemente perché io ricevo 30-40 mail al giorno da cittadini su cui noi dobbiamo dare delle risposte, perché siamo, voglio dire, loro sono i nostri datori di lavoro. Ricordo anche a quei consiglieri che parlano dei problemi del mondo, quando invece dovrebbero occuparsi di più dei problemi dei nostri concittadini, cosa che noi stiamo cercando di fare, appunto partendo dalle denunce anche di questo grande aumento, visto anche coi miei occhi, perché prima di fare l'assessore... Sì, ma non è un caso se ce ne occupiamo, perché ce l'abbiamo gli occhi, infatti, tutti nelle nostre città. Diciamo che è un problema di tutte le grandi, soprattutto grandi città italiane, quindi da Milano, Roma, Genova, Torino, quindi... Noi cosa abbiamo fatto? Ho dato incarico, un po' come ha fatto il mio omonimo a Milano, assessore alla sicurezza, ho dato incarico ai vari distretti della Polizia Municipale. I distretti sono, diciamo, l'organizzazione territoriale divisa la città in 9 distretti, ognuno ha un comandante, sì, della Municipale, e gli ho dato, diciamo, come dire, mandato di prendere informazioni, cioè di fermare queste persone, chiedere i documenti per, sì, capire, uno, se sono persone che sono usciti dai programmi, diciamo, di accoglienza, due, se sono invece ancora inseriti nei programmi di accoglienza, dove, sottolineo, le persone che sono ospitate. Mi fa piacere che il presidente del CEIS, che è un'associazione seria, abbia all'inizio già posto il problema. Che il problema qual è? Che molti di questi in attesa, diciamo, dello status, dovrebbero fare un programma di formazione, quindi essere condotti a scuola la mattina, imparare l'italiano, che è la prima forma di integrazione, e poi fare dei lavori che decide, ovviamente, diciamo, ovviamente, l'associazione. Se invece tu me li lasci andare fuori senza nessuna guida e quant'altro, è molto facile che poi, qual è, non parlando italiano, l'unica forma per riuscire a tirare fuori dei soldi, quella di accattonare. Sì. E specie quelli che sono molti, che però fanno anche accattonaggio molesto. Però mi perdoni, assessore, prego. Qua la cosa che forse è più interessante in tutta questa vicenda, a prescindere dal tema stesso dell'accattonaggio, perché poi c'è anche il ragionamento dietro che viene fatto e che veniva fatto dalle stesse associazioni che si occupano di accoglienza, insomma, queste persone hanno vitto e alloggio, c'è il famoso pocket money, quindi non si capisce perché debbano andare a chiedere denaro fuori se sostanzialmente sono ospitati e hanno da mangiare. E però il tema più interessante che mi sembra che ci sia di fondo è l'ipotesi che ci sia un racket dietro, ossia che la cosa sia organizzata e ci sia gente che prende il pizzo sull'elemosina che chiedono queste persone. Io posso parlare di un caso che ho visto con i miei occhi in una zona di Genova, che è Piazza della Vittoria, quindi zona molto centrale, vicino a una delle due grandi stazioni che abbiamo. Alla sera c'era un tizio con giacca verde, berrettino, che poi passava a farsi dare l'incasso dei vari 4-5 che dalle 8 del mattino alle 8 di sera continuavano ad andare avanti e indietro, dove lì c'è un grande posteggio, a chiedere con insistenza dei soldi. Ma lei soldi, l'ha denunciata questa cosa, assessore? Sì. Certamente che sì, questo già prima. Dopodiché, una volta diventato assessore, abbiamo iniziato a fare i controlli. Ovviamente prenderli con le mani nel sacco è molto difficile, perché poi hanno tutto un sistema, no, di avvisarsi, un po' come succede per i pusher della droga, che hanno le sentinelle. Però quando non c'era agenti, quindi io, diciamo, avevo un ruolo assolutamente meno conosciuto di adesso, ho potuto verificare che c'era uno che raccoglieva gli incassi. Questo le parlo di una zona specifica. Dopodiché, e poi ora ci sono delle indagini per capire se il fenomeno riguarda tutta Genova oppure se era un fenomeno soltanto limitato, limitato. Allora, assessore, io intanto la ringrazio. Vedremo come evolverà anche questo giro di controlli. Assessore alla sicurezza e legalità del Comune di Genova, Stefano Garassino. Poi dobbiamo parlare anche col spostarci in Sicilia con il nostro giro d'Italia, Scicli, provincia di Ragusa, perché risulta essere, dalle classifiche del Ministero, a pochi giorni dalla decisione della Commissione europea che ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per la lentezza nei pagamenti ai fornitori da parte della pubblica amministrazione, risulta essere Scicli il peggior pagatore d'Italia. Siamo nell'ordine dei 600 giorni e passa. Abbiamo già in linea il sindaco di Scicli, però stiamo andando lunghissimi e quindi lo riprendiamo dopo la borsa e subito dopo andiamo là. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli: maltempo, esondazione nel Reggiano, 1000 persone evacuate, ci sono ancora persone nelle case nel comune di Brescello e si sta cercando di recuperarle, esce dagli argini anche il Secchia nel Modenese. Esplosione in un impianto di gas in Austria, un morto e 18 feriti, interrotta la fornitura verso l'Italia, ma i cittadini possono stare tranquilli, dicono dal Ministero, perché c'è il gas stoccato. Popolare Vicenza, al via tre giorni di udienza in tribunale, in Commissione Banche torna a parlare Banca Italia, nessuna pressione su Etruria. Attacco di Amnesty ai governi europei, complici delle torture sui migranti in Libia, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, come si diceva, il nostro Giro d'Italia prosegue con la Sicilia e con Scicli, provincia di Ragusa. Il sindaco Enzo Giannone, buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. Da dove ci parla? Dalla stanza del questore di Montelusa, perché voi lo sapete che Scicli, e anzi la stanza del sindaco è la stanza del questore di, del commissario Montalbano, il palazzo del comune è quello della questura, insomma, quindi è da là, sì, che, sì. Ci, è da là che ci parla. No, a dire la verità sono a casa. Di fronte al mare, no? Di sto fronte al mare, allora. Controllare il territorio. Senta, mentre controlla il territorio, però noi apprendiamo dai quotidiani che voi siete il comune, il peggior pagatore d'Italia, il peggior pagatore all'interno della pubblica amministrazione. Tutto questo in giorni nei quali la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia per la lentezza nei pagamenti. Voi siete sopra i 650 giorni? No, purtroppo, cioè purtroppo, per fortuna non è così. Io ieri stesso ho fatto un comunicato di chiarimento e di smentita. Dire il vero, questa notizia era già emersa in estate, era stato solo 24 ore proprio, credo, a darle. Avevamo già dato un chiarimento, l'abbiamo fatto anche oggi, riservandoci insomma bonariamente di chiarire. Si tratta di una fake news clamorosa, una bufala pazzesca. Ma perché? Che è perché non è vera, non, cioè, la notizia è assolutamente infondata, è così, è infondata. Ah, questi sono dati del Ministero però, no, sindaco? Non sono dati del Ministero, no. Sono dati che nascono da una lettura del tutto errata che è stata fatta sui dati ministeriali, nel senso che la banca dati del MEF sul pagamento delle pubbliche amministrazioni è una piattaforma che quando sono stati presi questi dati, che ripeto non sono stati presi adesso, ma sono stati presi qualche mese fa, non era aggiornata, era incompleta ed esaminava purtroppo dati disaggregati. Al giornalista o ai giornalisti che hanno dato la notizia sarebbe bastato visitare la sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune di Scicli per vedere quali erano i dati veri. I dati veri riferimento all'anno 2016, e lo dico diciamo a scanso di equivoci, non ero io peraltro l'amministratore, no? Essendo un sindaco ne ho letto, ma c'era una commissione straordinaria del Ministero degli Interni in quel periodo, danno una media per tutto l'anno di 245,44 giorni e non di 628. Nel 2017 quel dato lì, 245, cioè adesso sotto la mia amministrazione, sono addirittura molto migliorati. A quanto perché siete? Per esempio noi siamo adesso nel quarto trimestre a 94 giorni, che come si vede insomma che sono tanto per però in media italiana, cioè no, il motivo... è molto, no, rispetto alla media italiana è anche più basso, cioè, il comune di Scicli non è ultimo nei pagamenti. Non è nella media, ma è tutt'altro. Io quello che dico, insomma, vabbè, il dato, voglio dire, la notizia è stata data, ma io inviterei un po' tutti, soprattutto gli addetti ai lavori, a riflettere su un altro tema, che è quello proprio che è all'ordine del giorno, tra l'altro, mi pare anche nel dibattito politico generale, che è quello delle notizie false, cioè delle fake, che possono veramente dare in questo caso un'immagine un'immagine distorta, ma possono anche incidere pesantemente nei giudizi e nelle valutazioni che i cittadini danno, che i cittadini danno delle amministrazioni, tanto, cioè, per, ecco, tanto per fare un esempio. Da ieri siamo stati costretti a fornire dati, la notizia è passata ieri per prima sulla prima pagina della stampa. Ieri è venuto qui a Scicli il corrispondente della stampa dalla Sicilia orientale, a cui abbiamo fornito proprio le tabelle, no? Le carte. Ed ecco qua, le tabelle ce le ha illustrate, sindaco. Io la devo salutare, la ringrazio, l'abbiamo dato occasione di chiarire. Non ci sono problemi, cioè, allora, dire, è giusto chiarire, però è anche giusto capire come vanno le cose nel nostro paese, nell'informazione. Grazie Enzo Giannone, sindaco di Scicli, provincia di Ragusa. Umberto Lebruto, direttore produzione di Rete Ferroviaria Italiana, buongiorno, benvenuto. E come mai i treni si fermano quando si gelano le linee? Come mai e se succede negli altri paesi? Eccoci. Buongiorno a tutti voi, grazie per l'occasione. E si fermano, è davvero un fenomeno eccezionale che va sotto il nome di gelicidio. Era successo per la prima volta in Italia nel 2009, si è ripetuto quest'anno. In buona sostanza si realizza intorno al conduttore di rame su cui striscia il pantografo che alimenta il treno, si realizza un vero e proprio manicotto di ghiaccio. Questo manicotto di ghiaccio isola il pantografo del treno, non c'è più passaggio di energia, il treno si ferma. È evidente, sto parlando di treni a trazione elettrica. Perché i diesel vanno. In Italia però sulla rete nostra devo dire siamo fortunati perché il 70% della nostra rete è tutta a trazione elettrica e quindi la maggioranza dei nostri treni sono a trazione elettrica che ovviamente sono anche meno più sostenibili, meno inquinanti, quindi in un qualche modo da una parte... Facciamo un esempio, Lebruto, in Germania che succede? Beh, si invertono un po' le percentuali. In Germania rispetto all'Italia c'hanno più linee a trazione diesel rispetto a quelle nostre in termini percentuali e quindi questi fenomeni non ci sono. Poi il fenomeno del gelicidio non è così frequente in Europa. Sì. È un fenomeno studiato praticamente, cioè, tre, immaginiamo l'aria in verticale, cioè tre strati, uno freddo, sì, uno caldo, uno freddo. Il freddo genera nella parte alta la neve, sì, scende giù nella parte calda, quest'aria calda la trasforma in goccioline, sì, ritorna nello stato freddo d'aria, congela e quindi si trasforma in ghiaccio e tutto ciò che trova in quello strato di aria fredda diventa ghiaccio. Sì. I fili elettrici sono attraversati da questa aria fredda, le goccioline e l'umidità si poggiano praticamente su questa linea di contatto e diventa un vero e proprio manicomio. Lebruto, si può prevenire in qualche modo che la gente rimanga 8 ore dentro un treno? Allora, noi siamo attrezzati per prevenire e devo dire lo facciamo con grande solerzia. Mi dispiace che abbiamo causato in un qualche modo dei problemi ai nostri clienti, però davvero è dovuto a un fatto eccezionale. Noi ogni volta che si avvia la stagione invernale iniziamo a lubrificare i fili di contatto, questi fili in rame, con dell'olio e con del grasso che abbassa il punto di congelamento e lo facciamo a partire dal mese di novembre. Sì. E su quelle linee avevamo già messo del grasso per evitare questo fenomeno. In più siamo attrezzati con dei treni raschiaghiaccio, con dei pantografi di ferro che in un qualche modo puliscono la linea dalle impurità, quindi il grasso, il raschiaghiaccio e inoltre stiamo anche sperimentando, sì, da qualche anno un modo di far circolare nei conduttori una corrente che, sì, riscalda per effetto Joule e quindi dovrebbe sciogliere e non far congelare. Purtroppo di fronte a un fenomeno di gelicidio che davvero quando colpisce è repentino, immediato e avvolge, dice, completamente, ancora non abbiamo trovato, nonostante stiamo, sì, davvero investendo moltissimo in tecnologie, non ancora abbiamo trovato il modo di sciogliere praticamente quel manicotto in maniera altrettanto repentina. Allora, guardi, sì, Lebruto, io devo veramente chiudere, se no Roberta Frisani dall'altra parte in regia mi ammazza perché siamo in ritardissimo. Grazie Umberto Lebruto, direttore produzione di Rete Ferroviaria Italiana. E ragazzi, non lo so che cosa succeda in Norvegia, forse avranno tutte locomotive diesel, ci informeremo anche su quello e vi sapremo dire. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.